Assomigliami adesso, cucciolo appena arrivato. Assomigliami al mondo, ti dia un grande benvenuto. Assomigliami adesso, sotto un cielo agitato, su queste calde mie mani, ancora sporche di gelato. Assomigliami adesso, che sono grande da poco, e guardo ancora con gli occhi di chi si aspetta un po' di tutto. Assomigliami adesso, e sarà fresca l'estate, e con l'estate vedrai i colori e che bellezza al mare. Impareremo a nuotare, impareremo a capire, ad amare le cose, quelle piccole così. Assomiglierà. Sarò presente la tua notte, io padre, tu mio figlio, diventerò più grande insieme a te. Divideremo il bene dal male, terrò distanti le tue paure, arriverà l'amore, il primo gioco che non vince. Assomigliami adesso, cucciolo appena arrivato, sei così piccolo e quasi ho paura di toccarti, ma tu sei lì che mi guardi, mi stai chiedendo qualcosa, non ti capisco, ma forse non è poi così importante. Stanotte prego più forte per questa piccola vita, per questo mio nuovo amore che sta dormendo qui con me. Assomiglieremo come gocce, sarò presente. Assomiglieremo come gocce, sarò presente.